che pensi, se realmente pensi quel che pensi, di pensare una parola, una stronzata per parlare. Se pensi di essere triste, forse lo sei davvero. Se pensi ciò che dici, allora sei sincero. L'orrenda verità di una realtà che di continuo ci butta sempre al posto che non sarà mai primo. Non smetti di pensare ad un'indigestione, invece restringita al tempo della prima comunione. Pensare di aver credo socialista, ma al momento di pagare le tasse ti poni troppe forze. L'effetto è salutare garantito, tu toccherai con mano quanto è assurdo tutto il mondo e il suo infinito. Ti svegli e pensi che farò da grande, tante domande, troppe risposte vane e brande. E adesso pensi ad un ritiro spirituale, eliminare tutti i tuoi pensieri che da ieri fanno troppo male. Troppe stronze, troppe corse e troppe verità supposte. I miei flash, il mio re, ogni step, la mia tag, il come, il dove, il quando, il perché. Gli spy, ghetto, blasta, freestyle, in piazza, il die e il vai del pusher che spaccia. Lo sguardo della tipa, il numero e rubrica, l'amica dell'amica, dell'amica, dell'amica. Il prossimo tattoo, la musica e il suo groove, il beat massiccio che pompe lo metti in loop. Le skills degli MCs, dime 3D, lo scratch del DJ con il breaker in spin. La fine di una moda, la prova che ti inchioda, la storia, la droga e i peccati di gola. La sfida è il suo clou, i wild di face two, le origini, i miei amici, la mia vita, la mia crew. Ci sta la fama, tra quelli più ricorrenti ci sono i contanti clama. Dopo ci sta l'invidia, l'accidia e la gelosia, che in fondo questo mondo già mandano in avaria. Ogni essere vivente è simile ma differente, un pensiero ricorrente che tormenta la sua mente. C'è chi pensa al gioco, affida la vita all'azzardo. C'è chi è più testardo e la fida invece a sostanze. C'è chi pensa poco e il suo pensiero lo tradisce, finisce che si esaurisce presta futili demenze. Penso a realizzarmi, ma chi vuole sfruttarmi pensa a caricare con odio le proprie armi. Pensa a sistemarmi, ormai lo penso spesso, come un condannato che riflette sul processo, come un maniaco che pensa soltanto al sesso, oppure come un VIP che pensa solo al successo. Al posto stesso pensa solamente l'uomo materiale, ne approfitta della gente che è stato confusionale. Pensa a sopravvivere, a vivere in modo onesto, c'è chi è ossessionato a ricevere, avere presto. Tutto è di brutto, pensa solo a quella, arrivando pure al punto di fregare il suo cervello.